America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, siamo ormai agli addii, siamo in questo momento, come dire, magico, teso, emozionante del passaggio dei poteri, di questo storico passaggio pacifico dei poteri che avviene ogni 4 anni. Domani è la giornata chiave, domani mattina Donald Trump andrà alla Casa Bianca, entrerà in macchina con Barack Obama, lo accoglierà il presidente, ancora il presidente, perché Barack Obama sarà presidente fino alle 11:59 di venerdì. Andranno insieme al Campidoglio, ci sarà la cerimonia di giuramento, dopodiché Barack Obama con la famiglia partirà e se ne andrà. Comunque sia, sappiamo che ci sono state tensioni per questa transizione, alcuni si sono irrigiditi, c'è una marcia sabato contro Donald Trump, una marcia delle donne americane. Eppure devo dire che, nonostante le tensioni e le preoccupazioni di molti, di alcuni, per l'arrivo di Donald Trump alla guida del paese, Barack Obama si è congedato dalla nazione, dagli americani e da noi giornalisti, ieri con l'ultima conferenza stampa. Ecco, devo dire, è stato un momento, ne ho seguite moltissime di conferenze stampa di Barack Obama. Ho avuto anche l'onore di fargli delle domande. Ecco, dunque, il momento è molto particolare per chiunque lo abbia seguito in questi 8 anni, 8 lunghi anni. E vi dicevo, comunque sia, Obama ha chiuso con una nota di ottimismo e con raccomandazioni importanti, soprattutto sul fronte delle libertà civili, che siano rispettate, ha detto, e ha incoraggiato la stampa a fare il suo dovere. Il messaggio politico, secondo me, più importante è quello che aprire al dialogo con la Russia è importante, dice Barack Obama. Io ho sempre cercato di farlo e quindi è giusto che Trump cerchi di farlo. L'importante è che si rispettino, naturalmente, a seconda dei casi e dei tavoli, le istanze che in questo momento sono aperte. Obama si riferisce in particolare alla Russia. Ma sentiamo il presidente nel suo saluto di ieri alla conferenza stampa finale nella saletta dei giornalisti della Casa Bianca. I believe in this country. I believe in the American people. I believe tragic things happen. I think there's evil in the world. But I think that at the end of the day, if we work hard, the world gets a little better each time. That's what this presidency is trying to be about. Ecco, Obama dice: credo in questo paese, credo negli americani, credo che i tempi migliori sono ancora davanti a noi. Certo, accadono tragedie, accadono fatti storici purtroppo devastanti, ma alla fine, se abbiamo lavorato sodo, il mondo di volta in volta diventa e diventerà un posto migliore. Questo è quello che ho cercato di fare della mia presidenza, ce la faremo, dobbiamo solo continuare a combattere per questo obiettivo. Ecco, Barack Obama qui dà un po' una sintesi di questo suo pensiero, ma si riferisce per esempio al fronte razziale, nel momento in cui dice le tensioni razziali restano ancora forti, ma sono meno forti di quello che potevano essere anni fa. Sentiamo di nuovo il presidente, vorrei farvi sentire in quest'ultima occasione la voce di Barack Obama, perché poi non parlerà più. I have offered my best advice, counsel. Having won an election, it is appropriate for him to go forward with his vision. Ecco, qui Barack Obama racconta del suo rapporto con Trump nella transizione. Alcuni hanno detto che questa transizione è stata molto difficile. Sì e no. E devo dire che Obama ha usato parole di rispetto per il presidente entrante e dice: a Trump ho offerto i miei consigli e ritengo che sia giusto che proceda sulla strada dei suoi valori e del programma con cui ha vinto le elezioni. Tuttavia lo avverte, dice, l'ho avvertito che da presidente si renderà conto della complessità dei problemi che dovrà affrontare. Dunque sarà importante che si appoggi molto ai suoi consiglieri, perché il compito del presidente, ha detto, è enorme, è un lavoro talmente colossale, dice, che non si può fare da solo. Chelsea Manning has served a tough prison sentence. You know, I feel very comfortable that justice has been served and that a message has still been sent. Chelsea Manning, la grazia, vi ho dato la notizia l'altro giorno, spiega perché ha dato questa grazia. Dice: perché ha scontato un duro periodo di carcere. La mia decisione non cambia, il messaggio di fondo è che chiunque tradirà i nostri segreti sarà punito. Manning aveva subito una sentenza sproporzionata rispetto al crimine commesso e questo rende, come dire, sensato ridurre, ma non cancellare la sua punizione, perché è stato in prigione, è stata una prigione dura e dunque giustizia in qualche modo è stata fatta, si è consegnato, ha riconosciuto di essere colpevole, insomma è un uomo che ha dialogato con la giustizia, meritava la grazia. Lo stesso non si può dire, questo è il messaggio sottinteso di Barack Obama, per Edward Snowden, che avrebbe voluto ottenere anche lui la grazia, e però sappiamo che è un fugitive, che è rifugiato in Russia addirittura con Vladimir Putin, e dunque Barack Obama sicuramente non avrebbe potuto perdonarlo in alcun modo. Sentiamo un commento invece sulla Russia, visto che abbiamo parlato di Putin, che è stato secondo me importante. I think it is in America's interest and the world's interest that we have a constructive relationship with Russia. That's been my approach throughout my presidency. Ecco un po' quello che vi dicevo prima. Qua Barack Obama specifica che è nell'interesse degli Stati Uniti e del mondo intero avere una relazione costruttiva con la Russia. La compartimentalizzazione di cui vi ho parlato in molte trasmissioni, questo era stato un approccio di Barack Obama e un approccio di Trump, dividere i tavoli, e Barack Obama lo conferma, dice: questo è stato il mio approccio durante tutta la mia presidenza, un dialogo selettivo con la Russia, ma non confondiamo il motivo per cui sono state imposte le sanzioni, dice Obama, sono state imposte per la violazione della sovranità e dell'indipendenza ucraina, non per cercare di negoziare un accordo nucleare, come ha detto Trump. Trump aveva detto: forse rivedremo le sanzioni se otterremo un accordo nucleare interessante. Ecco, questo, dice Barack Obama, è un esempio sul ruolo che gli Stati Uniti devono continuare a recitare nella difesa dei valori. I più forti non possono maltrattare i più deboli. Thank all of you, and having you in this building has made this place work better. So America needs you and our democracy needs you. E beh, chiudiamo, consentitemelo, con un messaggio per noi giornalisti. Barack Obama è stato molto carino, dice: vi ringrazio per il vostro lavoro, anche se a volte mi avete criticato, anche se a volte non ero d'accordo con voi. Avervi avuto qui in questo palazzo è stato uno stimolo. L'America ha bisogno di voi, delle vostre domande anche provocatorie. La democrazia ha bisogno di voi, e dunque spero che continuate a fare il vostro dovere. Barack Obama ha anche accennato a cosa farà dopo. Beh, sarà un cittadino, ma sarà un cittadino che interverrà, parlerà, se ci sarà, da tutelare l'interesse delle minoranze. E chiude dicendo: bene, a questo punto diventerò un consumatore del vostro lavoro, non sarò più il protagonista. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.